Italia in controluce, la politica nel tunnel. Bersani alla prova del Quirinale, questo è il titolo della puntata di oggi, 28 marzo, Italia in controluce, sms 349-238-6666. Dunque il giorno in cui il leader del Partito Democratico Bersani salirà al Colle e riferirà al Presidente della Repubblica Napolitano dello Stato delle lunghe consultazioni con le forze politiche, parti sociali, associazioni e singole personalità. Non ci sono cambiamenti rispetto al dopo elezioni. PD e SEL hanno maggioranza alla Camera, non hanno i voti in Senato per ottenere la fiducia. Il Movimento 5 Stelle ha sbattuto la porta in faccia a Bersani. Scelta Civica ritiene poco o nullo quello che ha sentito in questi giorni da Bersani. PDL mette sul tavolo le trattative del dopo Napolitano e Berlusconi dice al Quirinale o me o Letta. Solo la Lega, ma solo per smarcarsi dal PDL, potrebbe soccorrere Bersani. Dunque cosa succederà? Con ogni probabilità Bersani chiederà a Napolitano di andare comunque in Parlamento, ottenere i voti, ed è quasi certo che il capo dello Stato opporrà un governo istituzionale ma a regia democratica, magari con Pietro Grasso presidente, un manipolo di personaggi di qualità ma fuori dai partiti. E poco fa, pochi minuti fa, certamente una sorpresa, la proposta di Grillo, quella che spiazza tutti, una proposta importante. Dice Grillo: il Parlamento può funzionare anche senza il governo, non è necessario un governo per una legge elettorale o per misure urgenti per le piccole e medie imprese o per il taglio delle province. Allora, secondo voi si può lavorare anche senza un governo? Come ha detto poco fa Grillo, c'è bisogno in Italia di un governo politico o basta un governo istituzionale, cioè un governo del Presidente? 349-238-6666, iniziamo da Vincenzo Miglietta per raccontare queste ultime ore concitate di Bersani. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Ultime ore concitate, dicevi Daniele, il leader PD questa mattina ha terminato le consultazioni, ha ascoltato Centro Democratico, Sinistra, Ecologia e Libertà e poi i capigruppo del suo partito. Era scontato logicamente che queste forze confermassero la fiducia nel premier incaricato. Con rispetto per il Quirinale, ha detto il capogruppo di Sel Migliore, riteniamo sia possibile andare ancora a verificare il consenso nelle aule rispetto alla proposta di Bersani. Zanda, PD, capogruppo al Senato, ha detto c'è ancora spazio per risolvere in modo positivo la situazione, ma come anticipavi da studio, Bersani quando questa sera andrà dal Quirinale non potrà che mostrare più ottimismo rispetto a dei numeri veri, neri su bianco, in quanto questi numeri, Daniele, non ci sono, però il premier incaricato vuole comunque mettere gli altri partiti di fronte alla prova del Parlamento, alla prova della Camera, alla prova del Senato, affinché tutte le forze politiche si assumano le proprie responsabilità. Sembrerebbe questo un messaggio indirizzato soprattutto al Movimento 5 Stelle, ma cosa farà Napolitano? A questo punto è quasi scontato che Napolitano non potrà mandare Bersani però in Parlamento, sarebbe un ulteriore tempo perso, il Paese non se lo può permettere, circolerebbero quindi nelle ultime ore vari nomi per un governo di scopo, un governo del Presidente, il Ministro Cancellieri, l'ex Presidente Amato, quindi questa potrebbe essere la strada seguita. Bene, grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto sono già arrivati come sempre i vostri sms, sono tanti. Secondo Sergio da Milano, un taxista, il premier sarà il direttore della Banca d'Italia e verrà nominato da Napolitano. Guido da Bergamo dice: tanto vale a questo punto fare un governo di Grillo che equivale alla sua assenza, così almeno alle prossime elezioni prenderanno il 5%. Matteo da Modena dice di essere d'accordo con Grillo. Non c'è bisogno dei politici e dei partiti per fare le riforme urgenti, magari succedesse davvero. Ecco, ma caro Matteo, Grillo non parla di politici o di partiti, parla di un'assenza di un governo, perché in realtà poi dei voti in Parlamento per fare le leggi elettorali o per fare le riforme ci vogliono, no? Questo è quello che dicono. Le leggi sono varate dall'esecutivo, che Grillo, il guru Si facciano meno canne, dice Sergio Sanguinetti da Pietra Ligure. Grillo è il nuovo grande fratello, lui parla, i suoi fedeli eseguono, dice un altro ascoltatore. Un altro dice, però per la Costituzione il governo non è certo l'organo più importante, dice Gianni. Questo è meglio il governo di Bersani, il corruttore, o un governo istituzionale, dice Gino Sighicelli. Ma Berlusconi presidente no, quello no, dice Serena. Anna Aiello parla di, va bene, governo del presidente, PD già dato con Monti, o viale mal governo di Berlusconi. La possibilità di un non governo è possibile, lo prevede la Costituzione, dice Alessandro da Piacenza. Va bene il governo del presidente Amato, dice Giuseppe, ma siamo matti, è meglio il governo di Bersani, un altro ascoltatore. Va bene, abbiamo capito, come sempre siete divisi, Bersani alla prova del Quirinale. Allora, e il PDL che fa? Elisabetta Fiorito, cosa sta facendo? È vera questa idea? PDL e Lega, dico, soprattutto quello che ho letto in alcuni retroscena quest'oggi, che Maroni vorrebbe smarcarsi dal PDL e quindi potrebbe essere, anche se però i voti della Lega non bastano. I voti della Lega non bastano, anche perché si è sfilata Scelta Civica al Senato, che appena ha visto che Bersani non aveva i numeri ha pensato bene anche di dare forfè. Allora, intanto diciamo che Maroni è interessato a questa convenzione per le riforme, una sorta di bicamerale che potrebbe attuare il famoso federalismo, rimasto poi inconcluso con il titolo quinto, la riforma del titolo quinto della Costituzione. Però il problema è uno solo, che intanto il PDL continua a ribadire vogliamo il Quirinale, Silvio Berlusconi è uscito allo scoperto, ha detto al Quirinale ci potrei andare io oppure Gianni Letta, ovviamente due nomi impossibili da accettare per Bersani. La Lega, come dicevamo, potrebbe fare avere l'appoggio, magari uscire dall'aula, ma questa sembra sempre più un'ipotesi remota. Beppe Grillo lancia un Parlamento senza governo. Ricordiamo che anche attualmente il governo c'è, presiede Mario Monti, è Presidente del Consiglio per gli affari correnti. Abbiamo visto infatti due giorni fa che Terzi di Sant'Agata, il Ministro degli Esteri, si è dimesso e Monti ha assunto l'interim, per cui non esiste un paese senza governo o un Parlamento senza governo. Questo Beppe Grillo forse non lo sa, ma è scritto nella Costituzione. È vero che il Parlamento attualmente, anche presieduto da Mario Monti, se ci fosse l'intesa tra i vari partiti, potrebbe continuare a legiferare e potrebbe legiferare sicuramente su una nuova legge elettorale, anche avviare misure urgenti per le piccole e medie imprese o i tagli delle province. Queste sono le proposte di Beppe Grillo, ma ricordiamo anche che attualmente si potrebbe cominciare a pensare che potrebbe prendere la strada di ritorno alle urne, e a questo punto bisognerebbe capire quando si dovrà tornare alle urne, se non si riuscirà a fare un governo. Alcuni parlano anche del 7 luglio, altri ad ottobre, quindi le carte sono ancora tutte da giocare, Daniele. Bene, grazie, vedremo quali carte. Intanto al 349-238-6666 pullulano i vostri messaggi, da chi dice che i guru hanno perso 5 voti, si potevano fare tutte le riforme, peccato, si riferisce Gianni da Genova al Movimento 5 Stelle. Grillo sta bruciando un'occasione irripetibile, dice Bruno da Roma. Si può fare, cosa aspettiamo la proposta di Grillo oppure perdiamo ancora tempo? Cari grillini, dice, l'occasione è passata, vi meritate Berlusconi presidente, 20 anni di oblio per tutta la sinistra, voi compresi, dice un altro ascoltatore. All'origine di questo caos c'è Bersani, che ha boicottato in tutti i modi Renzi, dice Edo da Milano. Comunque voi la pensate, domani siamo ancora qui a Italia in Controluce a raccontarvi il taccuino della crisi politica. Vi ricordo che ci potete trovare su Facebook, la pagina e il gruppo, abbiamo l'altra pagina di Twitter e poi ancora Controluce @radio24.it, il nostro sito www.radio24.it.